Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Eshkol Mevo è uno degli scrittori israeliani della nuova generazione più apprezzati. La simmetria dei desideri è forse il suo romanzo più famoso. Ora è in libreria con Tre piani, pubblicato in Italia da Neri Pozza, con la traduzione dall'ebraico di Ofra Bannet e Raffaella Scardi. Secondo me questo è uno dei romanzi più belli, è stato uno dei romanzi più belli del 2017. Ha un grande ritmo e c'è un'acuta analisi proprio della diversa psicologia dei personaggi. È la storia di tre confessioni, di tre persone che abitano nello stesso palazzo. Al primo piano troviamo Arnon e la moglie. Arnon si confida con un amico dei tempi del servizio militare, è profondamente schiacciato da un senso di colpa per aver affidato una delle due figlie ad una coppia di anziani vicini di casa e qualcosa, si capisce, è successo. Al secondo piano c'è Hani, che scrive una lettera ad un'amica interrogandosi sul marito, quanto lo conosce realmente. Infine al terzo piano c'è Dvora, che si rivolge al marito morto. Queste storie sono legate dal fatto che tutte le voci narranti hanno la necessità di confessare a qualcuno un segreto. E allora sentiamo da Eshkol Mevo come è nata l'idea del romanzo. In quel periodo, quando ho cominciato a scrivere il libro, mi portavo dentro segreti di molte persone che mi appesantivano. Ho iniziato a chiedermi come mai e a chi noi raccontiamo i nostri segreti. E così, in questo libro fatto di scrittura confessionale, ho fatto raccontare i segreti non alla persona più scontata. Per esempio, al primo piano, l'uomo racconta all'amico scrittore che non vede da tanti anni. Al secondo piano, Hani scrive una lettera alla sua amica che vive negli Stati Uniti e con la quale ha perso i contatti. E al terzo piano, il giudice, una donna, racconta i suoi segreti al marito morto. Proprio perché non si tratta della persona più vicina, ci sentiamo liberi di raccontare i nostri segreti. Si ha la sensazione che i tre abbiano quasi difficoltà a confessarsi e forse proprio per questo motivo scelgono di parlare con delle persone che non sono affettivamente così vicine. Questo dipende dal tipo di segreto che hanno da raccontare o è un meccanismo che succede spesso, cioè tendiamo a scegliere una persona un po' più distante da noi per raccontare appunto i segreti? I personaggi sono spinti dal senso di colpa e quindi parte della loro confessione consiste nel raccontare una storia che dà un significato a quanto è accaduto, per essere capiti, per essere anche perdonati e forse anche, nel caso della terza protagonista, per far arrabbiare la persona con cui si parla. Sono confessioni che sono anche manipolazioni di chi ascolta e del lettore. Il lettore non deve credere a queste confessioni. I personaggi del romanzo ci raccontano qualcosa per arrivare ad avere la nostra comprensione e forse il nostro perdono. A proposito di senso di colpa, partiamo dal primo piano dove c'è Arnon con la moglie. Questa coppia ha due figlie, una delle figlie, Ofri, viene spesso affidata ai vicini di casa che sono anziani. Si ha la percezione che qualcosa è accaduto. Arnon prova un grande senso di colpa per averla affidata appunto ai vicini e questo senso di colpa che lo schiaccia e poi lo porta a fare tutto quello che vediamo che fa appunto nella prima parte del romanzo. Arnon, il personaggio del primo piano, sembra veramente uscito da una tragedia greca. Fa di tutto per proteggere la sua famiglia, sua figlia, la sua vita di coppia e alla fine tutto quello che cerca di fare gli si rovescia contro. È stato veramente eccitante per me scrivere di questo personaggio. Da un lato mi piaceva, mi interessava, mi intrigava e dall'altro mi spaventava. Un po' lo capivo, un po' non lo capivo, un po' mi era simpatico e un po' antipatico. La stessa cosa accade nelle reazioni dei lettori. Da una parte il lettore genitore capisce Arnon, capisce la sua preoccupazione, il suo timore per i figli. Ma allo stesso tempo questa eccessiva preoccupazione per i figli fa sì che Arnon rovini la sua vita. Quando ho finito di scrivere questo personaggio mi sono veramente spaventato. Mentre lo scrivevo mi tremavano le dita. Era un personaggio che ho sentito troppo forte appena concluso il libro e ho pensato di metterlo da parte e non continuare a scrivere. Oggi che sono passati 2 anni lo vedo con maggiore distacco e vedo la potenza che ha questo testo. In effetti Arnon è un personaggio che turba, lo dico da lettrice, ci si sente coinvolti nei suoi ragionamenti, il lettore non capisce se abbia effettivamente ragione o se stia esagerando. Tutta la prima parte è costruita con un ritmo come, diciamo, se tu avessi gettato l'amo al lettore. Fai capire che è accaduto qualcosa di grave, ma solo alla fine si capisce se è così o no. Ecco, questo meccanismo è stato studiato o è venuto da solo con il personaggio? La scrittura di questo libro è stata differente rispetto a quella dei miei romanzi precedenti. È stata quasi un'esplosione che è arrivata da sola, e forse un po' secondo il principio di Alice Munro. La Munro dice che non sa cosa succederà nel paragrafo successivo che sta scrivendo, come se i protagonisti si costruissero mentre li sta creando. È il mio libro più intuitivo, forse più selvaggio. Ci ho messo, è quasi imbarazzante dirlo, solo 5 mesi a scriverlo. E io sono uno scrittore che di solito ha bisogno di anni per produrre un libro. Solo adesso che sono passati più di 2 anni dalla pubblicazione in Israele, mi sento in grado di parlarne, di vedere una costruzione, un'unità di spazio e di tempo, un'unità nel fatto che ci sono 3 confessioni. Come dicevo, è forse il mio libro più intuitivo e mi auguro di riuscire a scriverne altri in questa modalità. Ho la percezione, da quello che mi viene detto dai lettori, che chi lo legge senta e viva questa immediatezza. Mi è capitato più volte di sentirmi dire «L'ho comprato e non potevo smettere di leggerlo», oppure «L'ho letto tutto sul cellulare». Insomma, è venuto di getto e di getto si legge. Infatti io l'ho letto sullo smartphone, devo dire che veramente non riuscivo a fermarmi nonostante lo schermo appunto fosse piccolo. Da lettrice l'ho percepito come un romanzo molto viscerale. Si capisce che c'è una parte molto intima dello scrittore che viene fuori. È anche un romanzo molto psicologico, nel senso che vengono quasi riportati dei meccanismi tipici della psicanalisi. Ecco, come scrittore hai fatto riferimento a questi meccanismi della psicanalisi in modo consapevole o no? No. Itkhalti lakhshov al mivne shel ha-S-I-O super-I-O b'sof ha-koma ha-shniya. No, la risposta è no. Ho iniziato a pensare a questa costruzione di S, ego e superego quando ero alla fine del secondo piano. Anche nel mio modello di pensiero non ci sono i 3 piani dell'anima. Questi 3 piani sono all'interno della nostra vita, in ogni momento. C'è un costante conflitto fra l'istinto, la realtà e l'etica, in ogni momento e in ogni lettore. Questo non è soltanto un libro molto intimo, ma è anche un libro che guarda gli aspetti più oscuri della nostra anima e che spero possa portare sollievo e qualche tipo di redenzione al lettore che vede che non è solo lui a sentirsi così. Ritornando allo schema dei piani, al secondo piano c'è Hani, una donna che scrive una lunga lettera ad un'amica che ormai vive negli Stati Uniti. Fra i vari temi che vengono toccati, Hani si interroga su suo marito, su quanto lei realmente lo conosca. Questo è un tema ricorrente nella letteratura internazionale. Ma Eshkol Nevo che risposta si è dato a questa domanda? Cioè quanto conosciamo la persona che ci sta accanto? Comunque, ani khoshev a הדמות של חני נולדה משילוב של התבוננות על תופעה חברתית יש בישראל Cani nasce da un mix di due fenomeni differenti. Il primo è un fenomeno sociale diffuso in questa fase in Israele, tanto che c'è proprio una parola per definirlo. Si parla di vedove high-tech, donne che hanno i mariti che viaggiano tanto per lavoro, sono sempre via e vivono una relazione di coppia virtuale. Le ho incontrate persone così. Ani è una creatura che mette insieme un po' di questi occhi tristi che ho incontrato e un po' di questo desiderio di cambiamento che ho visto. L'altro aspetto è che Hani sono io. È il personaggio in cui più mi rispecchio in questo romanzo, perché il lavoro di scrittore mi porta a momenti di grande solitudine, a trovarmi chiuso in casa. Mi sento molto vicino a lei. Per quanto riguarda la domanda sul conoscere se stessi e il nostro partner, penso che possiamo capire chi ci sta a fianco non sempre per come vive, ma soprattutto per quali sono le sue fantasie. È per questo che ho voluto basare la scena erotica del secondo piano tutta sulle fantasie dei due protagonisti, Hani e Aviatar. Forse il modo migliore che abbiamo per conoscere chi ci sta accanto è conoscere le sue fantasie e i suoi sogni. Seguendo il racconto dei tre piani si nota anche un cambiamento, una sorta di evoluzione della lingua. Al primo piano la lingua è un po' più basica, dove c'è Arnon, poi con Hani e ancora più con Dvorah cresce proprio come proprietà di linguaggio e complessità. Perché c'è questa scalata? Complimenti alla traduttrice. La questione della lingua è veramente molto delicata e temevo che non passasse nella traduzione. Quindi sono molto contento che tu mi faccia questa domanda, perché vuol dire che anche la versione italiana riesce a trasmettere tutto ciò. Nel momento in cui si tratta di una confessione intima, è fondamentale usare una lingua autentica, una lingua diversa per ciascun personaggio, perché se falsi la lingua si sente subito che non sei vero. Ogni personaggio deve avere la sua lingua. Quella di Arnon è più diretta, quella di Hani più sofisticata, quella di Dvorah cambia a un certo punto, all'inizio è più giuridica e poi si fa mano a mano più intima e più libera. Ho lavorato molto sulla lingua di ciascun personaggio. Ecco, come lettore però non si capisce se questa diversità di linguaggio dipenda da una diversa formazione anche scolastica dei protagonisti che parlano. Sappiamo per esempio che Dvorah è un giudice. Allora, insomma, perché li hai voluti mettere su un piano sequenziale? Perché questo crescendo? C'è un movimento ascensionale nel libro, a partire da Arnon, che è un uomo disperato, tormentato, ossessionato da quanto gli è accaduto e che vive nel presente. Si passa poi a Hani, che si apre un po' di più grazie al fatto che una persona entra nella sua vita e nella sua casa. Lei riesce ad allargare un po' il suo orizzonte, ma comunque è chiusa sulla sua vita personale. Al terzo piano abbiamo una prospettiva più alta e per questo ci serve una lingua più alta. Nel momento in cui sei a un piano più alto e hai una prospettiva maggiore, non vedi solo te stesso, vedi in una società, all'interno di un paese. Per questo in questo terzo piano parlo della protesta sociale che c'è stata in quegli anni e posso fare i conti non solo con il presente, ma anche con il passato. I primi due protagonisti sono del tutto occupati a sopravvivere a quello che gli sta accadendo nel presente. Dvorah, invece, può guardare indietro e può guardare dall'alto anche tutto il libro. Ci sono più pause in questo piano, anche la scrittura, anche il modo in cui si sviluppa la storia, con i piccoli asterischi e i brani brevi, ha un maggior respiro. Ci sono come piccole piazze fra le vie degli eventi, in cui ci si può rilassare. Il lettore, come Dvorah, quando arriva al terzo piano, può avere uno sguardo sulla società e non solo su se stesso. E questo era Eshkol Nevo, ora in libreria con Tre piani, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Si intitola Sangue giusto, l'ultimo romanzo di Francesca Melandri pubblicato da Rizzoli. La Melandri, sceneggiatrice, è al suo terzo romanzo. Di lei avevamo parlato già nel 2012, quando con Più alto del mare era stata finalista al Campiello e aveva vinto il premio Rapallo Carige. Ora dunque c'è questo sangue giusto. Protagonista, una donna sulla quarantina, Ilaria, che viene improvvisamente a sapere che suo padre, Attilio Profeti, aveva avuto un figlio durante l'esperienza coloniale in Etiopia. Ora il figlio di quel figlio si presenta davanti a Ilaria dicendole, insomma, sostanzialmente tu sei mia zia. Ilaria dovrà fare i conti con un passato che non conosce, dovrà ricostruire la vita del padre, simbolo di quei tanti italiani che aderirono al fascismo, ma che subito dopo la caduta del regime, diciamo che voltarono pagina come se nulla fosse. E allora ecco come Francesca Melandri descrive la sua protagonista. In Sangue Giusto Ilaria è una, appunto, una donna di una quarantina d'anni. Il libro inizia con lei che torna a casa molto arrabbiata perché le hanno portato via la macchina, perché il giorno dopo arriverà il corteo di auto blu di Gheddafi in visita a Silvio Berlusconi. Siamo appunto nel 2010 ed è arrabbiatissima. Arriva a casa sua e trova sul pianerottolo un ragazzo africano, il quale dopo un breve dialogo le dice in sintesi: tu sei mia zia. Cosa che ovviamente la lascia di sasso. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui, che suo nonno è il padre di Ilaria, e questo apre a Ilaria tutto uno scenario di cui non sapeva assolutamente nulla, appunto, della vita di suo padre Attilio Profeti, tutta una vita africana durante l'occupazione italiana in Africa orientale negli anni 30 e 40, e deve anche innanzitutto capire se questo ragazzo dice la verità o no, e se lo dice che cosa vuol dire per lei, per la sua famiglia, e parte tutta una lunga ricerca che poi è la base del libro. Che reazione a Ilaria quando inizia a capire, appunto, che il padre ha avuto una sorta di doppia vita, appunto, perché ha avuto un figlio e poi a sua volta lui ne ha avuto un altro durante l'epoca coloniale in Etiopia? Allora, Ilaria alla scoperta che suo padre ha doppie vite c'è già abituata, non è la prima volta che le succede, e anche questo verrà raccontato nel romanzo. Già sa che suo padre è uno che è capace di avere, appunto, più di una vita contemporaneamente, anche a costo poi di molta fatica e complicazioni, doppie vite che poi sono sempre doppie mogli fondamentalmente. Però ecco, una terza doppia vita così proprio non se l'aspettava. Tra l'altro una cosa importante, questo ragazzo che lei si trova sul pianerottolo è arrivato attraverso quella rotta dei migranti che l'ha portato, appunto, da Addis Abeba in Etiopia fino al suo pianerottolo, quella rotta dei migranti di cui leggiamo sui giornali, vediamo al telegiornale ormai ogni giorno: il deserto, i lager in Libia, la fortunosa attraversata del mare, l'arrivo a Lampedusa, eccetera eccetera, poi l'incontro con la burocrazia italiana che dà o nega la possibilità di essere riconosciuti come richiedenti asilo, eccetera. Quindi si intersecano queste due storie, una molto attuale di dare un nome, dare un corpo, una storia a un ragazzo migrante, questa categoria che ormai viene usata così molto astrattamente, e poi invece sono, appunto, persone, storie individuali, e lui ne è una. E allo stesso tempo la vita di questo padre, con tutto questo pezzo e questi tanti livelli di, più che menzogne direi, omissioni su cui lui ha basato la sua vita. La più grossa omissione è in realtà quanto lui fosse convintamente fascista da giovane. Questa è la vera cosa. E infatti qui si apre tutto diciamo che tu accendi un faro a questo punto su questo aspetto di Attilio Profeti, ma anche un po' sulla vita di molti italiani che in quel periodo avevano aderito al fascismo, e poi nel momento in cui il fascismo è caduto, il giorno dopo, come se niente fosse, hanno, diciamo, cambiato casacca. Hopla, sento un grande leggerezza. Ecco, Attilio Profeti è quindi il simbolo un po' di molti uomini di quell'epoca. Uomini, donne, diciamo che non bisogna dimenticare che durante l'avventura coloniale italiana, appunto, in Africa orientale, il consenso di Mussolini era altissimo, era quasi totale. Quindi quello che mi interessava raccontare non era tanto i due estremi, i partigiani che hanno combattuto l'occupazione nazifascista e ci hanno, diciamo, salvato un po' l'onore nazionale, o neanche però i torturatori repubblichini. A me interessava raccontare questa enorme e assolutamente preponderante fascia di mezzo italica di persone che sono, appunto, come dicevi, state fasciste durante il regime, e poi dal 25 aprile, hopla, non lo sono stati più, e nessuno gli ha mai chiesto di rendere conto di questa cosa. E Attilio Profeti è assolutamente medio in questa, esprime una medietà, non esprime un estremo. Io definisco un po' la sua vita un processo di Norimberga individuale mancato, cioè lui è uno perfetto rappresentante di quella mancata auto-osservazione, se vogliamo così, riflessione su se stessi, su quello che si è fatto durante una dittatura, che, ripeto, è stata maggioritaria tra gli italiani, quindi lui non è un racconto eccezionale, è un racconto molto molto medio. Ecco, c'è da dire che Attilio si fa anche incantare dagli aspetti forse più estremi del fascismo, per esempio dalle teorie razziste che poi sono state dietro all'applicazione delle leggi razziali, che appunto al manifesto della razza, ecco, furono applicate nelle colonie italiane, perché noi ce lo dimentichiamo, esatto. Ma le leggi razziali non furono semplicemente un manifesto, ma furono qualcosa di concreto. Esattamente, noi abbiamo letto e visto tanti libri, film sull'applicazione delle leggi razziali terribili in Italia, appunto contro la comunità ebraica. Si sa meno, e si è stato forse meno raccontato, la loro applicazione in Africa, dove istituirono un regime assolutamente di apartheid, nel senso proprio due categorie di persone, una sopra e una sotto, a seconda del colore della pelle. Una cosa specifica che succede a Attilio quando lui ha questa relazione, come avevano la maggior parte degli italiani, che erano lì, una relazione con una donna del luogo, Abeba, che è tra l'altro un personaggio molto importante nel libro, quasi una coprotagonista, questa donna etiope con cui fa appunto questo figlio che poi è il padre del ragazzo che arriva sul pianerottolo. E lui ha questa relazione, le leggi razziali prevedevano che sì, si potesse avere una relazione puramente fisiologica, veniva descritta, per le urgenze fisiologiche, però era assolutamente proibito avere, questo cito proprio la legge, una comunanza di letto e di desco, cioè voleva dire che se poi ci dormivi anche insieme e ci mangiavi e magari ci facevi pure due chiacchiere, quindi magari ci volevi anche un po' di bene, ecco, quello proprio no, quello era sanzionato, eri sanzionato, eri punito. Questo per preservare questa idea della razza italica purissima, arianissima, che tra l'altro bisogna anche pensare che gli italiani non erano proprio così abituati a essere considerati razza superiore. Non ci dimentichiamo che tutta l'avventura coloniale fu dovuta alla necessità di far andare tutta l'emigrazione, che se no andava nelle Americhe come valvola di sfogo, quindi erano semmai abituati a essere oggetto di razzismo più che sentirsi quelli superiori, e quindi bisognava fare tutta una serie di operazioni proprio di propaganda per abituarli all'idea di considerarsi appunto superiori. Perché hai deciso di raccontare una storia romanzata appunto sull'epoca coloniale italiana, e come ti sei anche documentata su quel periodo? E diciamo, l'idea fondamentale del libro è non solo, forse non tanto, raccontare la storia coloniale italiana, che ovviamente è molto raccontata nel mio romanzo, ma metterla in relazione, e qui il personaggio del ragazzo che arriva sul pianerottolo è proprio il mio tramite narrativo, Scimeta Yetum Geta Attila Profeti, metterla in relazione con i fenomeni di oggi. Infatti il mio romanzo si basa su una struttura narrativa a due treni, diciamo, la vita di Attilio Profeti andando indietro nel passato, e poi invece nel presente recente, questo 2010, un'analisi anche proprio di questi flussi, fenomeni delle migrazioni, eccetera eccetera. E l'idea di fondo, se tu me la chiedi, è proprio mettere in relazione queste due cose, che apparentemente non c'entrano nulla l'una con l'altra, ma che in realtà fanno parte esattamente della stessa storia. Ovvero, queste persone che adesso arrivano da noi, la loro storia c'entra con quando eravamo noi ad andare da loro. E questa era Francesca Melandri, ora in libreria con Sangue Giusto, pubblicato da Rizzoli. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordiamo che in questo periodo delle feste Il Cacciatore di Libri va in onda in vari appuntamenti quotidiani. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it. Per essere sempre aggiornati potete seguirmi sui social, Instagram, Twitter e sulla pagina ufficiale di Facebook Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.